notte. Le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. D'Alema. Se non ci fosse, bisognerebbe inventarlo. Tutte le volte che parla recupero un punto nei sondaggi. Battutista superiore a D'Alema, possiamo dire a questo punto, Matteo Renzi, che ha risposto a una provocazione di ieri di D'Alema durante la direzione del PD, che è stata molto, molto tesa. Aveva detto che Renzi ascolta di più Berlusconi, Verdini anziché la minoranza del PD, visto che poi ha prevalso la posizione di Renzi, della maggioranza, ieri sulla riforma del lavoro, no? E quindi questo era quello che diceva, che bisognerebbe inventarlo D'Alema, perché lui guadagna un punto ogni volta che D'Alema parla. Quindi siamo allo scontro. Vi ricordate che all'inizio D'Alema era proprio il protagonista di quelli che Renzi voleva rottamare nella sua ascesa al potere, alla presidenza del Consiglio, poi dopo si erano invece piaciuti, poi adesso di nuovo si scambiano battute al veleno. Insomma, sono gli andamenti ondivaghi dei rapporti, in particolare quelli all'interno della politica. Stasera però, cari ascoltatrici e cari ascoltatori, vorrei rilanciare, fra i vari argomenti e le notizie di cui parleremo, la questione del TFR, perché in realtà l'ha rilanciata oggi di nuovo Renzi, dicendo che questo potrebbe essere effettivamente un po' un modo di far riprendere l'economia, cioè di dare una parte, un 50%, insomma, mensilmente, parte del TFR in busta paga, da appunto centellinare, mi pare che siano sui, a seconda naturalmente dello stipendio di ognuno, in modo così da far riavviare nuovamente l'economia. Che cosa ne pensate? Ho visto già ieri diversi vostri messaggi su questa questione che avevo appena accennato. Invece stasera ne parleremo in particolare, poi con un vice direttore del Sole 24 Ore, ci saranno anche altri temi. Sempre per le vostre opinioni ci sono la pagina Facebook di Effetto Notte, oppure i messaggi SMS al 349 238 6666. Quindi sareste d'accordo ad avere parte già adesso del TFR un po' disseminato mese per mese nella busta paga? Noi intanto partiamo con il riassunto della giornata. I dati Istat sull'economia: PIL ancora giù, consumi quasi fermi, record di giovani disoccupati, e il ministro Padoan parla di un quadro macroeconomico molto deteriorato rispetto ad aprile. Lavoro: Susanna Camusso replica a Matteo Renzi, che aveva detto che la gente è con lui. Attorno a noi cresce il consenso. Terrorismo: allarme di Londra, l'ISIS può diventare una minaccia nucleare, i terroristi decapitano 3 donne curde. Sicurezza: primo sì in commissione per dotare la polizia della pistola elettrica. Hong Kong: nuove proteste sull'isola, gli studenti chiedono più democrazia. Il rapporto sulla sanità: 2 anni per un intervento, ticket cari, gli italiani sono in fuga dal sistema sanitario. E per il calcio, Champions League in campo, adesso la Roma contro il Manchester, Manchester contro il City, domani tocca la Juventus. E per il nuoto, la notizia che il campione americano Michael Phelps è stato arrestato per guida in stato di ebbrezza. E partiamo quindi dai dati dell'economia italiana. Di poco fa una delle dichiarazioni, ne ha fatte diverse, del ministro dell'economia Padoan, il quale ha detto che il quadro macroeconomico è molto deteriorato rispetto alle previsioni contenute nel DEF, il documento economico finanziario dello scorso aprile. L'ha detto il ministro parlando della crescita e dell'inflazione. A partire dal 2016 si riprenderà l'aggiustamento strutturale dello 0,5%, dice Padoan, che porterà nel 2017 al pareggio di bilancio. Intanto oggi sono anche arrivati i dati Istat, secondo i quali prosegue la fase di debolezza dell'economia, che si accompagna al rallentamento dell'area euro. Il PIL, il prodotto interno lordo italiano, dovrebbe registrare una nuova flessione nel terzo trimestre dell'anno, e c'è anche il record della disoccupazione giovanile in Italia. Il tasso dei 15-24enni disoccupati ad agosto è stato del 44,2%. Mai così male dal 1977, cioè dall'inizio delle serie storiche trimestrali dell'Istat. I giovani senza lavoro ad agosto sono il 44,2%, quasi uno su due disoccupato, in aumento di un punto percentuale rispetto al mese precedente e di 3,6 punti nei 12 mesi. Dal calcolo sono esclusi i giovani inattivi, e cioè quelli che non sono occupati e non cercano lavoro, ad esempio perché impegnati negli studi. Ma non solo ci sono più giovani disoccupati, ci sono anche meno giovani che lavorano. Il tasso tasso di occupazione giovanile è calato al 15%. In generale, però, la disoccupazione ad agosto è scesa in Italia al 12,3%, un calo di 0,3 punti percentuali. Ma a smorzare ogni entusiasmo ci pensa il CNEL, che parla di una disoccupazione allargata, e cioè che includa anche scoraggiati e sottooccupati oltre il 30%, e secondo il quale per portare la disoccupazione a livelli pre-crisi, e cioè intorno al 7%, ci vorrebbe la creazione da qui al 2020 di 2 milioni di posti di lavoro. Praticamente un miracolo. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore, Roma. Insomma, in attesa di miracoli, comunque poi riparleremo ancora del Jobs Act, di cui si è discusso tanto ieri in direzione del PD, dello scontro in atto fra il presidente Matteo Renzi e la leader della CGIL Camusso, del TFR. Vedo già diversi vostri messaggi al 349-238-6666, anche delle opinioni sulla pagina Facebook di Effetto Notte sulla questione del TFR in parte in busta paga. Intanto il Consiglio dei Ministri ha approvato la nota di aggiornamento del DEF, del documento di economia e finanza, lo ha detto il sottosegretario alla presidenza Delrio al termine appunto della riunione. Di che nota si parla? Della nota di aggiornamento del documento di economia e finanza che sarà alla base della legge di stabilità. Sarà l'ex sottosegretario Legnini il vicepresidente del Consiglio Superiore della Magistratura. Sapete che si è votato tante volte in Parlamento senza risultati. Questo è l'esito, mentre la candidata laica del PD, Teresa Bene, votata dal Parlamento, è stata dichiarata ineleggibile. Ancora caos sulle nomine per la Corte Costituzionale, ma anche per il CSM, dove scoppia il caso di Teresa Bene. Altra fumata nera del Parlamento in seduta comune, nessun accordo, il PD resta fermo sul nome di Luciano Violante, in Forza Italia è congelato quello di Donato Bruno. Ma c'è un'altra grana, quella di Teresa Bene, eletta per il PD al CSM, ma in realtà ineleggibile perché non ha i requisiti, non è docente ordinario ma associato né avvocato effettivo da 15 anni. Il Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, interviene seccato sulla questione. Sono naturalmente molto rammaricato di quel che è accaduto. Mi permetto di dire che può esserci stata qualche frettolosità e disattenzione di selezione da parte del Parlamento. Il CSM elegge poi Giovanni Legnini come vicepresidente, 55 anni, ex sottosegretario all'economia del governo Renzi, che spiega: accoglierò la sfida delle riforme. Elisabetta Fiorito, Radio 24 e Sole 24 Ore, Roma. E adesso spostiamoci sulle notizie dall'estero. Parliamo dell'ISIS, con l'allarme lanciato dalla Gran Bretagna: armi chimiche e nucleari nelle mani dei jihadisti. L'ISIS, se non contrastato e lasciato proliferare in Iraq e in Siria, potrebbe diventare un vero stato terroristico e arrivare a costituire anche una minaccia nucleare, in quanto potrebbe dotarsi di armi chimiche, biologiche o perfino nucleari. A lanciare questo allarme è la ministra britannica degli interni, Theresa May, nel suo discorso al congresso del partito conservatore a Birmingham, dopo che la Gran Bretagna ha preso parte ai bombardamenti questa settimana contro l'ISIS in Iraq. Sul campo, intanto, le forze curde hanno lanciato un'offensiva su tre fronti contro l'ISIS nel nord dell'Iraq. Non si è fatta però attendere la risposta dello Stato Islamico. L'ISIS ha infatti decapitato 4 combattenti curdi, di cui 3 donne, fatte prigionieri nei combattimenti vicino alla città siriana di Kobane. Rimaniamo ancora all'estero, parliamo ancora di Hong Kong. Sono 2 giorni che ci sono, 2 giorni e mezzo, scontri e manifestazioni nell'isola. Nonostante la pioggia, continuano le proteste degli studenti. I cartelli appesi ai segnali stradali di Admiralty indicano che la via è piena, non c'è più posto per altri manifestanti. La sera del terzo giorno di proteste, il cuore di Hong Kong si presenta così, invaso da migliaia e migliaia di studenti e attivisti che non mollano, nonostante gli acquazzoni. Oggi la polizia si è tenuta lontana dal centro delle proteste, mentre il movimento Occupy Hong Kong continua a chiedere le dimissioni del governatore Leung e un vero suffragio universale per questa regione amministrativa speciale della Cina che non riesce a sopportare le ingerenze di Pechino. Leung, sotto attacco, ha dichiarato nel pomeriggio che la Cina non accetterà mai l'autodeterminazione di Hong Kong, e intanto le lancette corrono verso la scadenza di domani, 1 ottobre, festa nazionale cinese. A Hong Kong la notte è insonne e lo stesso governatore ha dovuto ammettere che la protesta andrà avanti a lungo. Antonio Talia, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Hong Kong. E invece, per quanto riguarda le notizie italiane, poi ne parleremo di questo argomento. C'è stato un primo sì in commissione alla Camera per dotare la polizia della pistola elettrica, che già sta suscitando da tempo delle polemiche. Poi capiremo in cosa consiste, che conseguenze può avere, dove si usa nel mondo. Poi passiamo invece alla sanità, perché è stato presentato oggi a Roma il 17° rapporto del Tribunale per i diritti del malato. Tra le segnalazioni più ricorrenti rispetto al nostro sistema sanitario nazionale, i ticket cari e le lunghe liste di attesa. 2 anni per un intervento all'ernia del disco, 20 mesi per una visita psichiatrica e ticket troppo cari. Le liste di attesa insostenibili e i costi elevati sono il principale terreno di scontro degli italiani con la sanità, ostacoli che spesso spingono i cittadini a rinunciare alle cure e a sacrificare la propria salute. A lanciare l'allarme Cittadinanza Attiva con il 17° rapporto PIT sulla salute, un documento che sintetizza le oltre 24.000 segnalazioni giunte nel 2013 ai PIT Salute Nazionale e Regionali e alle sedi locali del Tribunale per i diritti del malato. Quasi un quarto degli avvisi riguarda per l'appunto le difficoltà di accesso alle prestazioni sanitarie causate dalle liste di attesa, dal peso dei ticket e dall'alto costo economico delle cure intramenia. Un dato su cui incidono anche i tagli alla spesa pubblica degli ultimi anni, che hanno provocato l'aumento dei ticket più 20% solo nel 2013 e in alcuni casi il mancato rinnovo delle esenzioni fiscali. Miriam Corgia, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Ci sono delle novità sulla vicenda della Costa Concordia. Vi ricordate, ieri la ballerina slava moldava Dominka aveva dato un ultimato maschettino dicendo: guarda che se non parli tu parlo io. Bene, oggi ha parlato, dice che aspettavamo un elicottero sul ponte 11, dopo una telefonata Schettino ci fece tornare alle scialuppe. Sentiamo di cosa si tratta. Francesco Schettino aspettava un elicottero, è questa la verità di Dominka Cemortan. Puntuali allo scadere dell'ultimatum di una settimana fa lanciato al comandante della Costa Concordia tramite Facebook, arrivano le rivelazioni sulla notte del naufragio della nave da crociera davanti all'isola del Giglio. Mentre tutti si accalcavano ai ponti inferiori per raggiungere le scialuppe di salvataggio, la ballerina moldava, Schettino, e il maître Ciro Onorato, fratello di Gianni Onorato, ai tempi direttore generale di Costa Crociere, salivano al ponte 11 per aspettare l'elisoccorso. Mentre eravamo lì, il comandante aveva un'aria impaziente, rivela la donna. Nessuno parlò di un elicottero, ma lei non ha dubbi. Qui non ci vede nessuno, ripeteva Schettino. Chi doveva vederli in piena notte in cima alla nave? Il riferimento a un mezzo di soccorso aereo, secondo Dominka, è inequivocabile e conclude la sua verità con un ulteriore dettaglio. Dopo una ventina di minuti arrivò una telefonata a Schettino. I piani erano cambiati, bisognava tornare giù ai ponti inferiori. Adriano Palazzolo, Radio 24, Il Sole 24 Ore. È finito in manette, parliamo di sport, una notizia un po' triste, a Baltimora. Michael Phelps, sapete, il campione statunitense considerato il più grande nuotatore di tutti i tempi, andava a 140 km orari in una galleria e è stato fermato dalla polizia in stato di ebbrezza alla guida della sua auto. Mentre è brillante e assolutamente sobrio il nostro Dario Ricci, perché ci deve dare aggiornamenti sulla Champions di stasera. Dario? Sì, Roberta, ti ringrazio per la fiducia. Andiamo subito all'Etihad Stadium, sfida tra Manchester City e Roma. Siamo al 28° di gioco ed è 1-1. Al quarto minuto, subito avanti il Manchester per un fallo di Maicon su Aguero, calcio di rigore trasformato dallo stesso argentino che batte Skorupski, che per l'occasione sostituisce l'infortunato De Sanctis. Poi reagisce la Roma proprio con lo stesso Maicon, che al quinto su assist di Totti colpisce una clamorosa traversa, e al 23° Francesco Totti si mette in proprio e sigla l'1-1 a tu per tu con il portiere del Manchester City, Hart, con lo scavalca con uno splendido colpo sotto e sigla l'1-1. Tra le altre sfide della serata, interessante e importante anche il 2-1 del Paris Saint-Germain finora sul Barcellona, mentre nel girone della Roma, e vado a chiudere, il Bayern Monaco ha già vinto a Mosca con il CSKA per 1-0 e quindi a punteggio pieno con 6 punti. Confermo da Luigi, sobrio e anche seppure effervescente, poi ci riaggiorniamo su questa partita, sulle partite. Leggo intanto velocemente alcuni vostri messaggi al 349-238-6666 sul TFR. Renzi che dice, Luca che dice: Renzi non sa più cosa inventarsi per far ripartire l'economia, dopo gli 80 euro il TFR, si crede il salvatore ma sarà il rottamatore dell'Italia. Sebana scrive: no al TFR in busta paga, sì solo su istanza dell'interessato. Tina: il TFR non andrebbe toccato, un piccolo aumento oggi ed un pugno di mosche domani. Questi i vostri pareri per ora sulla questione del TFR rilanciata da Renzi, parte del TFR in busta paga. Ne parleremo tra poco, intanto però aggiorniamo chi viaggia. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Sono subito qui con voi, però c'è anche un Crozza Renzi a Ballarò. Vogliamo sentire un pochino? Pezzenti, sfigati, zivati, ci si può sbizzarrire. La cosa bella del Jobs Act è che una volta che il datore di lavoro licenzia qualcuno, lo Stato si e farà in modo che sembri un incidente. Però io voglio la mediazione. È vero, dico no all'articolo 18, però dico sì a IOS 8. Vedete, D'Alema ha detto che questa riforma, se si vuol far sul serio, se si vuol far sul serio, costa 10 volte tanto quello che ho detto io. Ma scusate, chi ha mai detto che voglio far sul serio? Signori miei, il PD deve capire che per non lasciare gli italiani al verde bisogna ascoltare i verdini. Io voglio un'Europa non di vincoli ma di valori, un'Italia non di opportunisti ma di opportunità, una sinistra. Bene, insomma, lo prendo in giro sugli slogan. Adesso vi riassumo brevissimamente le notizie e poi ritorniamo sulle vostre opinioni sul TFR e con il primo ospite. Renzi rilancia sul TFR in busta paga e anche dice la gente è con me, lo dice ai sindacati, ma la leader della CGIL Camusso risponde sta crescendo il nostro consenso. Il governo cambia il DEF, il prodotto interno lordo a meno 0,3%, il deficit al 3%, nel 2014 nuovo record della disoccupazione giovanile, ad agosto era 44,2%. ISIS, i terroristi decapitano tre donne curde, Londra evoca la minaccia nucleare. E poi Legnini, il nuovo vicepresidente del Consiglio Superiore della Magistratura, scoppia il caso di Teresa Bene, irritazione di Napolitano, era stata nominata, eletta dal Parlamento, ma non è eleggibile. E poi il primo sì per la pistola elettrica alla polizia, primo sì del Parlamento, ne parleremo più tardi. Crolla un solaio in un'antica stazione a Napoli, morto un operaio nella zona di Portici. Il boss Spatuzza chiede perdono, ho ucciso 40 persone, ho fatto cose orribili, ho venduto l'anima a Satana, lo dice in una videoconferenza dal carcere durante un'udienza del processo sulla strage di Via Palestro. E poi gli italiani che scappano dalla sanità, 2 anni per un'ernia, italiani in fuga, pubblica il rapporto pubblicato sul malcontento dei cittadini e soprattutto per le liste d'attesa e il caro ticket. Adesso parliamo allora dei dati dell'economia, del Jobs Act e anche del TFR. Ne parliamo con Alberto Orioli, vice direttore del Sole 24 Ore. Ciao Alberto, ben ritrovato. Ciao e buonasera a tutti. Allora Alberto, siccome vedo che gli ascoltatori e le ascoltatrici sono molto interessati a questa cosa del TFR e per lo più sembrano tutti contrari, tranne qualcuno che dice ma semmai su richiesta personale, io direi sulle altre cose se riusciamo a muoverci così agilmente e poi andiamo in particolare su questo argomento. Vogliamo partire dai nuovi dati Istat sul PIL? Cioè, di nuovo non c'è niente, è in calo e poi ci sono state le dichiarazioni del ministro dell'economia Padoan che non ha detto niente di rassicurante, no? Ha detto che è deteriorata la situazione economica generale. Sì, esatto, oggi è una di quelle giornate che per capriccio di calendario mettono insieme diversi dati economici e tracciano un quadro con una tavolozza tutta a tinte molto fosche. Compresa la disoccupazione, compresa no? Compresa la disoccupazione, esattamente. È venuto fuori che l'Istat nella nota mensile ci conferma che faremo il terzo trimestre con il PIL in negativo, pur se non precisa quanto, ma comunque si capisce che la recessione continua. È uscito il dato sull'inflazione, c'è ancora il meno 0,3 a settembre su agosto, che vuol dire che il paese è in deflazione, l'abbiamo detto tante volte, deflazione è una condizione più psicologica che economica, di un paese di consumatori che non consuma perché si aspetta che comunque la situazione andrà ancora peggio e questo naturalmente impedisce alle imprese di produrre, alle imprese di creare occupazione, di creare reddito e di far ripartire la domanda. In tutto, in un giorno in cui appunto si segnala il record della disoccupazione giovanile al 44,2 e in cui anche i dati che ha fornito la nota di aggiornamento del documento di economia e finanza del governo presentate nel pomeriggio dal ministro Padoan alla fine del Consiglio dei Ministri confermano un quadro fortemente deteriorato, sono le parole del ministro stesso. La notizia è che l'Italia chiederà lo slittamento del pareggio di bilancio al 2017 prendendosi un margine di 3 anni. E questa francamente è una buona notizia perché ci stavamo impiccando in questi maledetti parametri di Maastricht non avendo le risorse sufficienti per poterli gestire. Quindi lo slittamento è stato accordato? Lo slittamento è quello che chiederà il governo italiano sperando che possa battere i pugni sui tavoli di Bruxelles, ma non è affatto scontato che i partner europei ce lo possano concedere, non ci aprano una procedura di infrazione. Questa sarà la fase 2. una fase 2 dove probabilmente il governo italiano punta e conta di poter portare su quel tavolo lo sforzo riformista che si fa sul mercato del lavoro per avere in cambio appunto qualche allentamento sul deficit. È una manovra per niente banale, per niente scontata, e dipende anche dalla qualità della riforma del lavoro che il governo italiano sarà in grado di portare a Bruxelles. Per l'appunto, Jobs Act, ieri si è discusso tanto in direzione del PD, dicevo, poi ha vinto la linea di Renzi, ma era abbastanza scontato visto che ha la maggioranza e che tira dritto senza molte mediazioni. Però siccome ha detto che la riforma è questione di giorni, aspettiamo di vedere finalmente nero su bianco questa riforma e poi ne parleremo, Alberto. Invece adesso ne approfitterei di te, della tua presenza, per leggerti alcuni dei tanti messaggi che stanno arrivando sulla questione del TFR, no? Renzi propone, il governo sta lavorando a un'ipotesi di un TFR che in parte, il 50% si diceva, viene dato in busta paga mese per mese. Allora, leggiamo alcuni messaggi sia sulla pagina Facebook di Effetto Notte sia agli sms al 349-238-6666. Vittorio dice: quando si ha qualcosa poi vedi che devi restituirla, comunque quelli senza TFR come me a cosa può importare? Questa è un'altra voce. Giulio dice: domandone, chi anticiperà il TFR? Brigitte scrive: bisogna vedere se imprenditori hanno soldi per pagare in anticipo, infatti le piccole e medie imprese mi pare che siano molto contrarie. Ciro dice: il TFR periodicamente sembra il toccasana per tutti i problemi, già la creazione di sterminati fondi pensione a gestione privata incute più di un timore in prospettiva pensione, ora pure la balzana idea di creare ulteriori problemi finanziari alle imprese piccole o medie, dice. Te ne leggo ancora qualcuno. Non concordo, il TFR sarebbe soggetto a tassazione maggiore di quella in essere, dovrebbe essere un'adesione su base volontaria, dice Marco. Un altro: ma il TFR sono già soldi nostri, vogliamo erodere ulteriormente il risparmio, bisogna ridurre la pressione fiscale. E poi ancora vediamo, è una follia l'anticipo del TFR, viene sempre trasferito sulle piccole e medie imprese, le difficoltà dei governi vengono sempre trasferite lì da parte dei governi falliti, scrive Roberto. E poi una domanda: ho aderito fin dall'inizio ai fondi integrativi chiusi, secondo voi con la riforma TFR si profilano impatti? Insomma, te non lette parecchie, tu dove vuoi andare? Sì, gli spunti sono tantissimi e devo dire viene fuori uno spaccato proprio di quello che è l'Italia e gli italiani, cioè un paese, un popolo da Oscar del risparmio. Lo sappiamo che siamo uno dei popoli più risparmiosi d'Europa e del mondo, a dire la verità. Quindi l'atteggiamento che c'è verso il TFR, verso la liquidazione, verso il tesoretto di fine carriera, diciamo così, è sempre abbastanza sacro, nel senso che è considerato un risparmio di cui beneficiare alla fine della vita lavorativa e difficilmente cambierà status psicologico, diciamo così, nell'atteggiamento di chi lo percepisce. Cioè probabilmente questo mette a nudo una strategia sbagliata di uscita da questa crisi, non è dando e buttando carta nella fiamma che si fa ripartire. Quindi sei contrario, stai dicendo, consumi, con questa metafora. Ma non sono del tutto convinto, perché in realtà i soldi che stanno circolando non circolano perché rimangono nei depositi, nei conti correnti, c'è un atteggiamento di grande diffidenza verso il futuro, non è che mancano del tutto le risorse, ce ne sarebbero già che potrebbero tranquillamente essere destinate a consumi, a far girare l'economia, ma sono ferme perché non c'è fiducia nel futuro e non c'è fiducia negli andamenti generali, diciamo. La fiducia è una cosa impalpabile, non è una grandezza economica, è un fatto psicologico, individuale e collettivo. Quello che serve è garantire delle riforme di più lunga gittata che possano cambiare la faccia del paese, che sono sempre quelle, le diciamo continuamente tutti i giorni. Ha ragione chi ha scritto quella nota che dice: non è un problema di TFR, è un problema di abbassare la tassazione. Quello sarebbe la vera cosa che probabilmente fa cambiare faccia alle politiche come economiche, come dicono vari ascoltatori, di un governo, ed è quello che tutti gli italiani di qualunque estrazione e di qualunque occupazione si aspettano. Quello è il vero cambio, che purtroppo non si può fare perché le risorse pubbliche, diciamo del bilancio pubblico, non lo rendono disponibile se non si fa finalmente un piano radicale di tagli di spesa. Il problema vero è quello, quindi l'atteggiamento non è del tutto sicuro che anche anticipando una quota di TFR questo andrà naturalmente ai consumi, tutt'altro. Dall'altra parte il TFR è una cosa che nei bilanci è figurativa, perché è chiaro che in nessuna azienda tutti i dipendenti lasciano in un unico anno e quindi sono accantonamenti figurativi, diciamo così, a fronte di uscite molto dilazionate nel tempo e quindi che garantiscono di fatto il circolante e la liquidità delle imprese. Se gliele levi tutte d'un botto è chiaro che si pone un problema di liquidità. Non a caso lo stesso Renzi dice che il progetto si può fare solo se ci sarà un accordo con le banche che possano anticipare o riempire la liquidità che esce, diciamo così, a tassi naturalmente non da strozzinaggio. Mi sembra molto complessa questa operazione. È una cosa molto complessa ed è molto complesso anche il sistema di tassazione, come ha giustamente evidenziato uno degli ascoltatori. Non è chiaro o andrà ben specificato quale sarà il regime di tassazione per il TFR una volta che venga messo in busta paga. E ultimo, se mi consenti, il TFR non può essere come gli aerei di Mussolini da usare per tutte le occasioni. Il TFR, la quota smobilitabile, era stata destinata a finanziare con grande impatto i fondi complementari, i fondi di pensione di categoria o complementari, per creare la famosa seconda gamba della previdenza italiana, in modo che il sistema di welfare ritrovasse un nuovo equilibrio. Ora non si può togliere quel tipo di finanziamento a dei fondi che già hanno avuto tanta difficoltà a decollare, che solo in questo periodo e in questo tempo cominciano a funzionare. Quindi bisogna stare molto molto molto molto attenti. E concludo con un messaggio di Andrea, un po' così, diciamo, ci fa sorridere. Renzi dice: un grande, ci dà l'aumento con i nostri soldi. Va bene, Alberto Rioli, buon lavoro e buona chiusura del giornale, visto che lavori anche stasera. Grazie, buona serata. Ciao, buon lavoro. Bene, i messaggi stanno arrivando tanti, qualcuno ci fa sorridere, molti ci hanno fatto riflettere, ne abbiamo parlato. Adesso poi affronterò naturalmente molti altri argomenti, lo sapete, ogni sera stiamo insieme sino alle 22. Parleremo anche della pistola elettrica, fra le altre cose, dopo. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Roberta Giordano sempre con voi, abbiamo parlato di TFR, fra le altre cose vi ho visto molto appassionati sull'argomento, molto prudenti e anche un po' preoccupati. Adesso vi riassumo, prima di parlare di tagli ad altre spese invece, per vedere dove si possono raccattare insomma un po' di soldi, vi riassumo le notizie più importanti della giornata. A partire dai dati Istat sull'economia, PIL ancora giù, consumi quasi fermi, record di giovani disoccupati. Il ministro Padoan anche parla di un quadro macroeconomico molto deteriorato rispetto ad aprile. E sul lavoro Susanna Camusso replica a Matteo Renzi, che aveva detto che la gente è con lui. Attorno a noi cresce il consenso. Terrorismo, l'allarme di Londra, l'ISIS può diventare una minaccia nucleare, i terroristi decapitano 3 donne curde. Sulla sicurezza, primo sì in Parlamento per dotare la polizia della pistola elettrica. A Hong Kong continuano le proteste sull'isola. Il rapporto sulla sanità italiana, 2 anni per un intervento, ticket cari, italiani in fuga dal sistema sanitario. Per il calcio poi ci aggiorniamo man mano sulla Champions League, c'è Roma e la Roma contro il Manchester City. Ora vorrei affrontare un argomento che potremmo dire pop nel senso molto popolare, soprattutto da un po' di tempo in qua, da quando si è parlato anche molto di spending review in seguito alla crisi economica, crisi finanziaria, alla casta, no? Quante volte si è parlato di casta e quindi diciamo l'indignazione popolare che è cresciuta negli ultimi anni. Bene, è arrivata una notizia oggi che riguarda i tagli agli stipendi dei dipendenti di Montecitorio. Praticamente il via libera dell'ufficio di presidenza della Camera al tetto massimo per gli stipendi dei dipendenti della Camera, fissato a 240.000 euro. Si tratta insomma del piano di riforma del sistema retributivo del personale in servizio alla Camera, che introduce, vi dicevo, un tetto massimo a 240.000 euro e sottotetti retributivi, altri tetti insomma, diciamo, delle pensioni più basse per tutte le categorie, che è stato approvato con 13 sì, 5 astenuti. Se vi interessa, tra i 5 astenuti sono 3 del Movimento 5 Stelle, 1 della Lega, 1 di Scelta Civica. Non ci sono stati però voti contrari. E su questo vorrei coinvolgere l'onorevole Marina Sereni del PD, che è vicepresidente della Camera e presidente del Comitato per gli Affari del Personale. Buonasera Marina. Buonasera Sereni. A voi. Buonasera onorevole. Quindi insomma la decisione è stata presa, ci sono i sindacati che stanno protestando, ma intanto io l'ho detta brevemente, lei ci spiega un po' più nel dettaglio in cosa consiste. Sì, l'ha detta correttamente. Noi abbiamo ritenuto, Camera e Senato se posso dire, sì, di dover recepire il principio introdotto nella generalità della pubblica amministrazione di un tetto massimo alle retribuzioni, però proprio perché gli stipendi di Camera e Senato sono tutti molto elevati, diciamo diversamente da quanto accade nella pubblica amministrazione dove le punte elevate riguardano solo la dirigenza, noi abbiamo inteso interpretare quel principio del decreto del governo introducendo non solo il tetto per i consiglieri, che è la nostra categoria più alta, ma per tutte le categorie, per i documentaristi, per i segretari, per i collaboratori tecnici medici e per gli assistenti parlamentari. Marina Sereni, tra queste categorie, mi perdoni, è vero che ci sono anche più svariati, centralinisti, barbieri, falegnami, baristi, tutte le categorie. Tutti. Perché mi risulta, non so se erro, se hai sbagliato, che un barista di Montecitorio può prendere anche il doppio del sindaco di Roma? È possibile? Guardi, non ho chiarissimo qual è la retribuzione del sindaco di Roma. Io le dico che un assistente parlamentare nel vecchio schema poteva avere al massimo 136.000 euro di stipendio lordi, ora il suo tetto è 99.000. Un collaboratore tecnico poteva avere 152.000 euro lordi, ora è 106.000. Quindi, come per usare uno schema, tagliamo lo stipendio dei vertici, delle apicalità, delle categorie più alte, poi dobbiamo mantenere una certa proporzione, quindi così come interveniamo sulla categoria dei consiglieri, interveniamo anche su tutte le altre. Noi interverremo sugli stipendi di circa 560 dipendenti della Camera, quindi circa il 40%, e impediremo che quelli che stanno sotto a questi tetti li possano superare, quindi è un intervento molto consistente, anche un po' più ambizioso, se posso dire, di quello che abbiamo fatto sulla pubblica amministrazione, perché è un vero e proprio ridisegno del sistema retributivo del personale della Camera. Onorevole Sereni, però in termini, se vogliamo dire, di soldoni, qualche risparmio ci sarebbe? Guardi, in 4 anni, perché sono abituata a dire la verità perché è un po' rivoluzionaria come sempre, noi non possiamo fare un taglio in una volta sola, perché proprio perché tocchiamo così tante persone, il taglio si esercita in 4 anni e si fa quindi dal 2015, dal 1 gennaio 2015 al 2018. In questi 4 anni la stima dei risparmi è di 60 milioni per la Camera, quindi una stima molto significativa, molto consistente, che poi continua nel tempo, cioè non è solo il taglio vivo, come posso dire, la mancata spesa per questi anni, è anche che poi successivamente a questi 4 anni, dopo questa transizione, va a regime un sistema che è molto meno costoso di quello attuale. E per il Senato quando succederà questo? È lo stesso giorno, abbiamo deliberato nello stesso giorno, abbiamo elaborato lo stesso progetto, abbiamo fatto un negoziato insieme con i sindacati, abbiamo registrato un mancato accordo con le organizzazioni sindacali di Camera e Senato, e abbiamo però ritenuto che fossimo nelle regole del gioco a portare comunque la decisione ai nostri uffici di presidenza, quindi oggi ha deliberato anche. Poi vorrei parlare proprio dei sindacati, ma la somma che lei diceva di risparmio in questi 4 anni riguarda complessivamente questo Camera vale e Senato? Questo vale solo per la Camera, per il Senato la stima dei risparmi è di 37 milioni, quindi complessivamente tra Camera e Senato siamo quasi a 100 milioni, cioè 97. Nell'arco di 4 anni. Nell'arco di 4 anni. Parlava dei sindacati, che dicono siamo d'accordo sul tetto 240.000 euro, però non ai sottotetti, cioè alle categorie che stanno più in basso non siamo d'accordo a limitare lo stipendio. Ma guardi, che questa versione riguarda una parte dei sindacati, perché certamente un'altra parte dei sindacati non avrebbe accettato il taglio solo per i consiglieri, quindi intanto partiamo da un presupposto che una parte delle organizzazioni sindacali contesta legittimamente, ovviamente dal suo punto di vista, l'introduzione di altri tetti retributivi oltre quelli per i consiglieri, noi però riteniamo, lei prima mi ha fatto degli esempi, il barista, il barbiere, l'autista eccetera, io non voglio scendere nei dettagli, però noi riteniamo che la fotografia della situazione attuale non consentisse di introdurre solo il tetto per i consiglieri, perché avremmo schiacciato una piramide e avremmo reso un cattivo servizio al personale della Camera e del Senato, cioè noi avevamo bisogno di un ridisegno complessivo. Senta, tra quelli che si sono astenuti c'è anche Scelta Civica, c'è Stefano D'Ambroso, no? Che dice di essersi astenuto perché in questo modo, dice, non si eliminano gli sperperi. Ho votato a favore perché non soddisfa quella richiesta forte proveniente dagli elettori che vogliono l'eliminazione degli sperperi economici consumati nei palazzi del potere romano in questi anni. Lui dice che quindi non è questo taglio ai dipendenti quello che risolve. Ma guardi, io non condivido affatto l'analisi del questore D'Ambroso, peraltro segnalo a lui, prima ancora che a me stesso per la verità, che essendo il questore, quando farà il bilancio della Camera potrà segnare come un punto a favore quei risparmi che abbiamo appena detto, che sono esattamente il frutto di questa riforma. Tuttavia, rispetto alla sua ipotesi, la sua proposta, certamente si può sempre fare meglio, però io sono una donna di governo, so che molto spesso il meglio è nemico del bene. Un'operazione di questa portata, che interviene sugli stipendi già erogati al personale, non è mai stata realizzata, mai stata realizzata. So che naturalmente rimane ancora uno stipendio un po' più elevato di quello che c'è fuori di Camera e Senato, ma si cominciano le riforme mettendo mano alle cose possibili, bisogna fare anche delle scelte ragionevoli, onestamente. Quindi, onorevole Sereni, proprio l'ultimissima domanda, siccome gli ascoltatori inevitabilmente me lo chiedono, ma invece tetti agli stipendi, riduzione degli stipendi dei parlamentari di Camera e Senato? Certo, non è materia del mio comitato, ma insomma rispondo, cioè, perché sono anche un parlamentare, certo, sì. Io mi occupo del personale e ho fatto quello che mi è stato chiesto, certo. Ovviamente. Detto ciò, io sono in Parlamento da diversi anni, so, perché li ho visti concretamente, che dal 2006 in avanti noi abbiamo ogni anno introdotto delle riduzioni concrete sugli stipendi dei parlamentari e su altre voci che vengono impropriamente assimilate, no? Però la diaria, i rimborsi per il rapporto con il territorio, cioè sono voci che non sono propriamente lo stipendio ma che sono percepiti dai deputati. Noi in questa legislatura, per parlare dell'ultima legislatura, abbiamo tagliato per esempio per quanto riguarda chi ha cariche interne come i vicepresidenti, la presidente, i questori eccetera, abbiamo tolto l'appartamento di servizio, abbiamo tolto le auto, abbiamo ridotto di parecchio la dotazione per il personale assegnato a queste cariche, abbiamo ridotto per tutti i deputati, dimezzato le spese telefoniche, in questa legislatura abbiamo abolito il finanziamento pubblico ai partiti, in questa legislatura abbiamo fatto la riforma dei finanziamenti dei gruppi parlamentari, quindi la politica sta facendo anche lei, come è giusto, dei sacrifici e delle riforme. Bene, mi fermerei qui. Marina Sereni, la ringrazio e le auguro buona continuazione intanto. Grazie a voi, buon lavoro. Grazie. Niente, ogni tanto si ferma un po' la sigla. E adesso ci sono, vedo ancora i vostri messaggi, però è il momento dell'Europa. Europa 24 notte. Parlavamo prima del TFR, siamo nel pieno della settimana europea delle piccole e medie imprese in programma dal 29 settembre al 5 ottobre di quest'anno e 20 iniziative che sono utili per far conoscere come l'Unione Europea intende portare avanti gli aiuti e i servizi per far crescere le piccole e medie imprese in Italia e negli altri paesi membri. E quindi vediamo appunto di cosa si parla in questa settimana dedicata alle piccole e medie imprese. Vediamo se è pronto, sì, il servizio è pronto. Non solo l'Assemblea delle Piccole e Medie Imprese di Napoli, in programma dall'1 al 3 ottobre, organizzata dalla Presidenza italiana e dalla Commissione europea con la presenza del Presidente della Repubblica Napolitano, ma appuntamento anche a Bologna il 1 ottobre con innovazione e ricerca grazie a Let's Match 2014. L'obiettivo è uno: far conoscere le opportunità offerte dall'Unione europea alle piccole e medie imprese attraverso i nuovi programmi e fondi come Horizon 2020, che durerà ben 7 anni, e in particolare lo SME Instrument. In prima linea in entrambi gli eventi la rete Enterprise Europe Network, che svolge un ruolo gratuito di assistenza e affiancamento alle aziende. Uno di questi punti della rete, che si trova su internet cliccando su www.een-italia.eu, si trova in Piemonte. Nicoletta Marchiandi della Camera di Commercio di Torino, punto competente per il Nord-Ovest, spiega in che cosa consiste questo aiuto da parte dell'Europa alle piccole e medie imprese. La settimana europea delle PMI è in sostanza una campagna di comunicazione coordinata dalla Commissione europea per promuovere quello che l'Europa fa per le imprese, e in particolare l'Europa in questo ultimo anno e mezzo, ha messo in campo uno strumento molto interessante che è inserito nell'ambito del programma Horizon 2020 di sostegno alla ricerca e all'innovazione, e questo strumento si chiama strumento per le PMI, proprio contributi, finanziamenti veri e propri per progetti di innovazione e ricerca che nella prima fase di sviluppo possono portare le aziende a ottenere subito 50.000 euro per sviluppare studi di fattibilità che poi si trasformeranno in veri e propri progetti di ricerca e innovazione. Questo strumento si è aperto a marzo e la prima scadenza è stata giugno, e da giugno ad oggi la Commissione Europea ha già ricevuto in tutta Europa circa 4.600 domande, 4.700. Un vero aiuto e un vero assalto, diciamo, degli aiuti che sono anche gratuiti per le imprese, perché sì, appunto, qual è la modalità con cui le imprese possono rivolgersi a voi? La Commissione Europea ha messo a disposizione delle aziende una rete di supporto gratuito che è fatta di esperti, come noi nella Camera di Commercio di Torino, hanno proprio il compito di accompagnare passo passo le imprese nella redazione dei progetti europei al fine di ottenere dei finanziamenti. Come si fa materialmente a ottenere questa consulenza? L'Europa conta oltre 600 di questi nodi Enterprise Europe Network, 50 sono in Italia. In Italia le imprese possono rivolgersi a noi trovando il punto Enterprise Europe Network più vicino e cliccando sul sito www.en-italia.eu. Noi siamo dislocati su tutte le regioni d'Italia e i nostri servizi gratuiti sono tali in tutti gli entry points. I nostri servizi sono anche rivolti a cercare partner commerciali, partner di ricerca tecnologici per partecipare ai progetti, ma anche e soprattutto partner per trasferire le proprie innovazioni, le proprie tecnologie. Si tratta di servizi ad alto valore aggiunto che sono finanziati dalla Commissione Europea e pertanto non vengono assolutamente fatti pagare alle piccole e medie imprese, che invece sono i primi beneficiari. Anna Marino, Radio 24, Sole 24 Ore. Europa 24 Notte, in collaborazione con Euronet Plus. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Quante cose anche stasera da raccontarvi, adesso vi riassumo di nuovo brevissimamente giusto le notizie principali dai dati Istat sull'economia, con il PIL ancora in calo, disoccupazione giovanile record, e poi il ministro dell'economia Padoan che ha detto che il quadro macroeconomico è molto deteriorato rispetto ad aprile. Per il lavoro Renzi, che dice che il Jobs Act è questione, la riforma del lavoro proprio di giorni, rilancia sul TFR in busta paga, e poi c'è questo scontro con la leader della CGIL Camusso, la minaccia dell'ISIS secondo Londra, la Gran Bretagna ha iniziato da poco a far parte della coalizione che bombarda le postazioni dell'ISIS in Iraq e in Siria, c'è una minaccia anche nucleare per quanto riguarda i terroristi dell'ISIS. E poi il rapporto sulla sanità, 2 anni per un intervento, ticket cari italiani in fuga dal sistema sanitario, e c'è anche la questione della pistola elettrica. E di questo parliamo perché sul tema della sicurezza in commissioni congiunte di giustizia e affari costituzionali della Camera hanno dato il primo sì al possibile utilizzo da parte della polizia della pistola elettrica, il cosiddetto taser. E quindi vorrei chiamare in causa un esperto di difesa, di armi, di strategie, che è Andrea Margelletti. Buonasera Andrea. Buonasera a te, naturalmente un saluto ai tuoi ascoltatori. Margelletti, che è presidente del CESI, il Centro Studi Internazionali. Quindi mi pare che se ne fosse parlato altre volte, adesso però c'è questo primo sì, potrebbe quindi essere iniziato l'iter per dotare effettivamente le forze dell'ordine di questa taser, di questa pistola elettrica. In cosa consiste, Andrea, esattamente? È un sistema che permette di immobilizzare il sospetto senza dover fare ricorso alla forza letale, quindi consente alle forze dell'ordine di poter intervenire e dall'altra parte poter, diciamo, graduare la loro capacità di offesa. Quindi come si chiamano, i volt, il watt, cosa va questa pistola? Una pistola? Sì, è una pistola che spara dei dardi elettrici e quindi è una sorta di mini elettroshock che il sospetto cade a terra, ma ovviamente non cade a terra ucciso né ferito. Per qualche minuto è un po' così scombussolato, immobile, reso innocuo. Senti, però sottolineavano le commissioni giustizia e affari che può essere utilizzata in via sperimentale dalle forze dell'ordine a condizione che ciò avvenga in concerto col Ministero della Salute, perché chiaramente bisogna anche valutare aspetti, no, di incolumità personale, di che conseguenze fisiche può avere sulle persone. Sì, poi bisogna anche fare un discorso sulla realtà di tutti i giorni, perché prima di utilizzare quest'arma non è che il poliziotto, il carabiniero, il finanziere, comunque le forze dell'ordine possano chiedere al sospetto nell'urgenza dell'impiego un certificato di salute. Scusa, hai il pacemaker, hai delle controindicazioni, perché così non funziona. Sarà il Ministero della Salute a decidere se la pistola potrà essere impiegata o meno, poi bisogna lasciare alla discrezionalità dei operatori delle forze dell'ordine la loro capacità di la loro capacità di ragionare e di utilizzo di questo strumento. Ma solo pensare che un operatore delle forze dell'ordine, prima di estrarre l'arma, l'arma elettrica naturalmente, debba chiedere al sospetto: scusa, io ti vorrei sparare, ma sinceramente tu hai delle controindicazioni? Ma qual è la risposta? Certo, ce l'ho tutte, arrivederci e scappo. Senti, ma in quali paesi viene già usata? Ci saranno dei paesi in cui le forze dell'ordine sono già dotate? In moltissimi paesi, soprattutto basta citarne due, Gran Bretagna e Stati Uniti, giusto per citarne due, ma anche in Francia. Tu personalmente cosa ne pensi, brevemente, Andrea Margelletti? Allora, io ne penso tutto il bene possibile, per la semplice ragione che chiunque in Italia detiene legalmente un'arma da fuoco, compresa le forze dell'ordine, rischia di rovinarsi la vita se la tira fuori, se la estrae. Quindi rovinarsi la vita, e questo lo dimostra il fatto che sono moltissimi casi in cui operatori delle forze dell'ordine rischiano la propria impersonale incolumità perché l'utilizzo dell'arma da fuoco è penalizzante per loro rispetto invece a delinquenti che ne hanno un utilizzo ovviamente spregiudicato. Non vale soltanto per le forze dell'ordine, ma ripeto, parlo per tutti i cittadini che legalmente, e non parlo di giustizieri, i giustizieri vanno in galera perché sono dei matti, sto parlando di persone che a rischio della propria incolumità, perché stanno rischiando la vita, sono costretti ad estrarre l'arma da fuoco. Quindi per questa ragione ritengo che l'utilizzo dell'arma elettrica permetta all'operatore delle forze dell'ordine di agire con una maggiore sensibilità e probabilmente maggiore serenità. Grazie chiarissimo, Andrea Margelletti. Grazie a voi. Grazie, a presto, buona continuazione. Adesso invece continuiamo questa parte finale di Effetto Notte con Dario Ricci, che deve dirci che fine ha fatto la Roma nel frattempo, mentre noi discutevamo di un sacco di altre cose in Champions. Dario? No, è altro che fine, cara Roberta, siamo all'inizio quasi del secondo tempo e c'è una Roma che ancora è sull'1-1 a Manchester contro il City, ma che conquista metri, campo e anche occasioni. Nell'ultimo minuto due limpidissime per Pjanic, sulla prima bravissimo Hart stasera in serata di grazia a respingere da due passi, sulla seconda il destro di Pjanic è uscito proprio di mezzo metro, quindi di pochissimo. Una Roma insomma che se la sta giocando e come, e ricordiamo poi soprattutto il gol di Totti, quello dell'1-1 dopo l'iniziale calcio di rigore di Aguero che ha portato avanti il City, al 23esimo uno splendido tocco sotto a battere Hart. Totti è diventato così il giocatore più anziano a segnare nella storia della Champions, fresco 38enne. Anche i calciatori diventano anziani. Senti, Dario, volevo chiederti a proposito di Michael Phelps, considerato il più grande nuotatore di tutti i tempi, ormai insomma lontano dal nuoto, ogni poco c'è un guaio. È la maledizione di certi campioni che non trovano equilibrio. Ma diciamo che tra l'altro Phelps si è molto più vicino al nuoto di quanto non si pensi, perché è da poco tornato in vasca con l'obiettivo di rientrare da protagonista, di tornare protagonista proprio a Rio 2016. Protagonista è tornato con le manette per aver guidato in stato di ebbrezza, no? A Baltimora. Sicuramente è molto difficile per questi campioni accettare la parte declinante o la fine della carriera. Un Phelps che tra l'altro anche dopo i successi di Pechino qualche bravata l'aveva fatta. C'è di peggio in giro, c'è di peggio, però insomma anche tra l'altro lui ha una biografia molto particolare, un ragazzo che ha avuto fin dall'infanzia diverse difficoltà superate proprio anche attraverso il nuoto, ma è chiaro che una vita passata nel cloro a far su e giù 7-8 ore al giorno può lasciare anche, può anche avere degli effetti collaterali. Il cloro non fa benissimo così a lungo. Grazie Dario Ricci e noi ci risentiamo tra poco.